Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Oh, molto bene, amo la puntualità. Il nostro ospite per il Mood Groove è già in studio, perfetto, 7:47 minuti. Abbiamo però il momento del Last Minute. Il martedì sarebbe ultrasuoni, anzi altri suoni, lo confondo con la rubrica del manifesto dal quale ho preso in prestito un pochettino l'assonanza del titolo. Oggi invece parleremo di cinema. Ieri la presentazione e le novità della stagione 2023-2024 per Pop-Up Cinema è stato al Cinema Medica, ovviamente, a sorpresa, anzi sorpresa, una conferma a sua volta, sorpresa per i risultati raggiunti, una sorpresa molto interessante per quanto riguarda l'arrivo a Bologna di questi due registi che sono stati anche a Venezia, ma ne parleremo in maniera più approfondita con Francesco Fantoni, vicepresidente di Pop-Up, e quindi le novità che non sono solo riguardanti le proiezioni, ma anche un interessante concetto di portare a casa, anzi il cinema in casa e viceversa, cioè adesso con l'informatizzazione e le piattaforme viene, no, questo aspetto un po' di non frequentare come di consueto deve essere l'aspetto di presenza in sala. Ecco, questo percorso sarà al contrario, cioè abbiamo la casa al cinema. Beh, per saperne di più sentiamo questi motivi di dialogo con Francesco, poi torniamo in diretta ovviamente e la parte successiva di conversazione sarà incentrata sulle particolarità di intrattenimento oltre che sulle programmazioni. Si apre la stagione Pop-Up Cinema e siamo in compagnia di Francesco Fantoni, vicepresidente di gruppo Pop-Up Cinema. Si inizia quindi la stagione 2023-2024, è stata presentata con quali novità? Tantissime novità, cercheremo di costruire un appuntamento quotidiano per ogni nostro cinema per differenti tipi di pubblico. Per esempio partiamo il 12, quindi domani sera, con un invito per la città di Bologna portando il film che ha vinto Orizzonti a Venezia, subito del regista ungherese Gabor Reitz, Explanation for Everything, qua al Cinema Medica. Poi il 13 subito partiremo con un'altra anteprima veneziana, Frammenti di un percorso amoroso. A tutti e tre gli eventi presenzieranno i registi e i cast per quanto riguarda l'invenzione della neve. L'idea appunto è quella di, con questi primi tre eventi, di lanciare anche la nostra nuova card Pop-Up Cinema House, che vuole ribaltare il paradigma che abbiamo sentito negli ultimi anni. Le piattaforme dicono che portano il cinema a casa nostra, noi vogliamo far sì che il cinema diventi la casa degli spettatori, quindi un sacco di iniziative sia a livello filmico, quindi di offerta di prodotto, ma anche di coccole per i nostri spettatori, quindi ci saranno degli appuntamenti col food, quindi dell'alimentazione legata a quello che fornire ai film in sala, ma anche un angolo lettura, un salotto per attendere la proiezione dei film e, perché no, scambiarsi dei pareri e creare sempre di più una comunità intorno alle nostre sale. Questo è l'obiettivo e per fare questo creeremo anche degli appuntamenti nuovi, quindi tutti i mercoledì sera ci sarà un'anteprima di film e Wonder, rimaniamo il giovedì con la nostra Senior Academy, il venerdì avrà un doppio appuntamento, quindi la Junior Academy che continuerà sul solco di quello fatto fino ad ora, ma e continuerà anche la serata del secondo spettacolo serale con Birrette e Filmone, in cui offriremo un grande titolo della settimana con la possibilità di bersi qualche birra prima della proiezione. Il sabato notte abbiamo pensato a un appuntamento horror, quindi a mezzanotte la proiezione di un film horror seguita da Il coraggio di affrontare i bomboloni alle 2 del mattino. Shining through the clouds of blood, my vision. Conferenza di ieri e appunto la partenza è questa sera, ovviamente c'è questo aspetto nella registrazione che non è esattamente a tempo con le date, ufficialmente è questa sera anche perché il last minute da appuntamenti imminenti solitamente. Pop-up Cinema presente alla conferenza, anche fondatore e general manager di Pop-up Cinema Andrea Romeo, la voce che stiamo ascoltando ringrazio per la disponibilità Francesco Fantoni, vicepresidente del gruppo Pop-up. Come spesso denuncio, l'allontanamento per vari motivi, digitalizzazione che è protagonista in negativo, no? Soprattutto nell'aspetto che abbiamo vissuto con le limitazioni e restrizioni da pandemia, il cinema a casa vostra, mentre giustamente il concetto e filo conduttore per la stagione 2023-2024 è che casa vostra è il cinema. Siamo arrivati a diverse modalità di aggregazione, oltre che una grandissima qualità nella pubblicazione, nella diffusione cinematografica. Vi ho parlato di presenze, ospiti durante la conferenza stampa di ieri, continueremo a parlarne, ma non dimentichiamo che siamo arrivati alla giornata di domenica, sabato, con una programmazione dedicata alle pellicole e film horror a seguire. Poi addolciamo un po' la situazione con la distribuzione, la possibilità di fare uno spuntino con bomboloni e quant'altro, ma non solo, questo può apparire un motivo immediato, ma in realtà è un concetto di aggregazione quanto mai interessante che va a corredare una programmazione che vede diversi aspetti, oltre che una grande qualità per le distribuzioni cinematografiche. Sentiamo allora la giornata di domenica per questa stagione 2023-2024. Quindi la domenica mattina avremo una proiezione sempre qua al Cinema Medica, con a seguire un brunch. Anche lì vogliamo sviluppare un concept di tema legato al film, quindi la prima idea è Assassini a Venezia con Cicchetti Veneziani, ci stiamo lavorando e questa è un po' l'idea che vogliamo sviluppare. Il lunedì sarà la giornata dedicata al documentario col brand Top Doc, offriremo ogni lunedì sera un documentario in collaborazione con Mondovisioni dell'Internazionale e Biografilm, che è sicuramente una garanzia di qualità per quanto riguarda il prodotto del documentario. Il martedì sera sarà Mardi Bonbon, una rassegna dedicata ai film francesi grazie alla Library e Wonder e a tutti i prodotti francesi che da sempre è stato lavorato da questa compagnia. E il mercoledì ripartirà la settimana, certo, con le anteprime. Già possiamo dire che i primi due appuntamenti di Top Doc e Bonbon saranno lunedì 18, il nuovo film di Herzog con molto probabilmente lui in collegamento, e martedì sarà la volta di More and Key in anteprima, un film che uscirà poi il giovedì stesso per i Wonder Pictures. E oggi due testimonial d'eccezione in presenza. Assolutamente, la fortuna di essere riusciti a portare direttamente da Venezia i due vincitori targati ai Wonder dei Leoni di Orizzonti è stata una cosa molto bella e molto importante, ed è proprio in questa direzione che vogliamo andare per coccolare i nostri spettatori. Crediamo che organizzare eventi del genere, far toccare con mano i protagonisti protagonisti del cinema al pubblico sia il modo migliore per differenziare la sala dalla televisione. In sala si può toccare con mano il prodotto, si possono toccare con mano le persone che generano questo prodotto, che lo creano, gli elementi dietro alla realizzazione di quello che noi vediamo sullo schermo. Molto spesso la televisione e le piattaforme vanno ad appiattire questo concetto e non ci fanno vedere, per una bulimia di prodotto, non ci fanno vedere chi sono i veri creatori e non danno la giusta importanza a elementi e alle persone che sono dietro ai film. Quindi questo è un po' quello che vorremmo fare. Grazie per l'ospitalità e complimenti per la qualità. Grazie mille, alla prossima. Condivido ogni parola, le piattaforme, la televisione e come del resto scaricare la musica e tutto quello che è derivativo dalla digitalizzazione porta a un appiattimento. Una risposta arriva da Pop-Up per quanto riguarda la distribuzione al cinema, la proiezione per meglio dire, nella stagione 2023-2024 con ospitalità e grande qualità. Grazie Francesco Fantoni, come vi ho detto già in diretta studio, l'ospite coautore di Chi segna regna, dove il basket è passione, 300 campetti scovati e fotografati in giro per il mondo, un'estetica in questa pubblicazione veramente particolare, ne sapremo di più a breve. Ricordo che il libro è in palio per voi, non siamo al voltiamo pagina, non sono neanche i magazine, è il Mood Groove, ma come ben sapete il Breakfast Club è generoso, bisogna indovinare l'atleta misterioso, il cestista misterioso, è nel mio personalissimo Dream Team, quindi sapete bene l'epoca in cui ci stiamo rivolgendo. Ok, darò indizi piano piano per trovare e dare al 333-180-9494 a voi la modalità di risposta. A tra poco, aspetto Paolo Onofri per la palla 2, Mood Groove dopo la pubblicità.